Elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ma come fa un bambino ad avere già in testa le mummie? Perché in prima elementare la prima cosa che studiano è l'antico Egitto. È per questo che Livio ci ha mandato la sua domanda. Buonasera, come facevano i faraoni morti a diventare mummie? Grazie. Domanda secondo molto te semplice. Lui racconta con competenza distorta qualcosa che è molto diffuso, cioè l'idea che le mummie siano un passaggio diverso naturale, cioè della vita. Forse moltissima gente non sa che c'era un lavoro, una preparazione su infatti, cosa. Infatti, tra l'altro un lavoro assolutamente complesso e forse anche tecnologicamente avanzatissimo anche dal punto di vista medico. Per questo noi abbiamo bisogno di un paleontologo espertissimo in mummie e non solo. Buonasera al professor Albert Zink. Cosa dice? Partiamo rispondendo a Livio. Sì, va bene. Allora è giusto che era un lavoro molto avanzato che hanno fatto i balsamatori in antico Egitto. Allora il primo passo era che hanno rimossi gli organi intero, hanno fatto un piccolo taglio al lato del pancio, poi hanno tirato fuori tutti gli organi perché hanno saputo che non si conserva bene il corpo se non togliono gli organi interni. Tutte l'interiora, quindi lo stomaco, il fegato. L'unica cosa che hanno lasciato dentro era il cuore. Ah. E hanno pensato che il cuore è la sede dell'anima. Quello non si toglie. Poi hanno messo il corpo nel sale, un sale che si chiama natron, nel un sale di sodio, che si trova così in Egitto. E poi hanno lasciato qui almeno per 40 giorni, perché così il corpo si è seccato completamente. Cioè vengono risucchiati tutti i succhi, tutta l'acqua del corpo umano. Esatto, questo è molto importante perché così si evita che il corpo degrada dopo. Ecco, ma senta Singh, però lei dice gli organi interni venivano tolti, però tutte le vene, le arterie, tutte le fasci muscolari che sono nelle gambe, quello invece poteva restare senza creare danni di decomposizione? Sì, queste possono stare perché non contengono così tanto liquido come gli altri organi. Ah, era questo il punto. Sì, sono più anche tipo di fibre, queste si conserva meglio. Sì, si essiccano facilmente, diciamo. È anche difficile a togliere tutti i muscoli, tutti, questo non è possibile senza rovinare il corpo tutto. Completamente. Poi hanno trattato il corpo con i resini, con gli oli, con le erbe, anche per proteggere il corpo che non rientra l'acqua, rientra l'umidità e anche per dare un odore un po' buono, no? Perché sennò... Certo. L'odore sarebbe stato un po' sgradevole. E poi dopo questo hanno messo tutte le bende attraverso tutto il corpo in un modo molto preciso, hanno anche utilizzato un sacco di bende per poi chiudere il corpo, anche per proteggere il corpo, hanno poi anche messo dentro gli amuletti, diversi amuletti, dipende sulla persona anche. Sicuramente Livio faceva riferimento a questo, cioè lui si immagina, credo, tutte le mummie con le bende, tutto fasciato, ma che funzione hanno queste bende? Di contenere il corpo? Sì, per proteggere il corpo, per contenere il corpo, anche per completare questa mummificazione, perché anche hanno messo qualche bende, un po' di olio, un po' di resine, perché hanno questa esperienza che così il corpo si conserva molto più bene. E poi alla fine hanno messo nel sarcofago e poi alla fine hanno messo tutto nella tomba di questa persona. Sì, bisogna ricordare che alcuni, soprattutto quelli più importanti, avevano anche due, tre... sarcofagi, anche quattro, no? Sì, esatto. Uno dentro l'altro. Pensiamo che ha avuto diversi sarcofagi anche di d'oro. Questo anche dipende sempre se hanno imbalsamato un re o una persona reale. Dalla ricchezza, certo. Una persona che era anche importante, ma forse non come un faraone. Sì. Ecco, perché le persone normali, diciamo, non venivano mummificate, o sì? In un certo periodo hanno mummificato quasi tutti, forse non quelli poveri che non hanno i soldi, perché è anche una cosa che costa, che questo è un lavoro enorme a fare questo, che dura quasi 70 giorni tutto il processo. Allora, non tutti... Potevano permetterselo. Sì, allora, ma tutti quelli che sono un po' più importanti hanno mummificato. Va bene, grazie mille, professor Zink. Di niente. Big piccoli o grandi che siate, mandateci le vostre domande a elementare@radio24.it, perché cerchiamo di rispondere a tutto. Per esempio, è vero che Equitalia a suo tempo comunicò a Dracula che la tomba del cimitero nel quale si coricava durante il giorno doveva essere considerata come seconda casa, avendo lui già un castello? Elementare, Watson!